Purtroppo in cucina me la cavo malissimo, nel senso che so fare il caffè, poi so fare la pasta in bianco e poi basta. Io fino a Londra la mia unica priorità era il nuoto. Perché si parla di Mario che va a escort, Mario che ha le macchine belle, Mario che manda a cagare chiunque. Tutti convocati di Carlo Genta. Ciao a tutti, Franco Piantanini in redazione, Fabio Cantadori in regia, parterre de roi. Oggi qui in studio con me per in totale par condicio per commentare una giornata molto divertente in cui si insiste sul fatto che per la prima volta ci sono quattro squadre a punteggio pieno: Juventus, Napoli, Lazio e Sampdoria, che ha vinto tre volte, 8 punti perché ne ha uno di penalizzazione. Sacco di cose da farvi ascoltare, compreso Zamparini che fa il suo dovere, cioè licenzia un allenatore, compresa la vigilia di Allegri che si dice tranquillissimo, domani gioca con l'Anderlecht, magari anche l'unica partita che Milan può vincere in questo girone e in queste condizioni. Io saluto e ringrazio due voci che conoscete benissimo, come Massimo Gallegari da Mediaset Premium. Ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ed è tornato anche Paolo Ghisoni da Sky. Ciao Paolo. Ciao, buon pomeriggio. Allora, vi lascio scegliere un tema di questa giornata, uno per uno, Massimo. Poi comincio io anche a fare ascoltare il podio delle tre dichiarazioni migliori della domenica. Tema uno per uno che potrebbe essere la Juventus, che dimostra di avere una grandissima forza, però può avere una rosa limitata e dunque alla distanza questo può essere un problema. Se va avanti in Champions, come ha le qualità per fare? Cioè, Juventus corta, suona un campanello di allarme a Genova. Nonostante un grandissimo secondo tempo. Sì, mentre per il Milan non suonano i campanelli ma i campanacci. Beh sì, quelli già da un po'. Paolo Ghisoni. Io scelgo Napoli lungo, nel senso che ieri ho visto giocare bene, effettivamente quando hanno la fortuna di andare in vantaggio poi sui 60-80 metri sono devastanti perché hanno tantissima qualità, compreso Insigne che è entrato negli ultimi minuti e ha messo a segno il gol della sicurezza, quello che non erano riusciti a fare prima gli altri. Io invece mi prendo le due romane ma non so scegliere perché... Perché a voler prendi essere... la Roma, ti do un consiglio, guarda, per l'ospite che arriva tra un po'. Sì, a voler essere malizioso mi prenderei la Roma, che per il primo tempo incanta Bologna e il calcio italiano e poi esplode come un palloncino. Sappiamo bene che coi giovani si va in altalena, però questo è troppo, francamente. Mi piglierei anche la Lazio, che gioca un grande calcio, secondo me. Lazio molto sottovalutata, che vive all'ombra del cupolone Zeman e che Petkovic mette in campo in maniera meravigliosa, in maniera estremamente funzionale, e che ha un giocatore che è Hernanes, che io esagero, magari Massimo Caligari, che parlavamo prima, non è così d'accordo in questo momento per il peso specifico che ha nella squadra. No, mi hai convinto, è uno quasi, dei primi tre del convinto campionato quasi. Stamattina io a Sky Sport 24 ho detto che ricorda il primo Kakà per il raggio d'azione, per il raggio d'azione che fa. Sì. Poi ha un altro piede, ha un altro passo e altre caratteristiche, però chi fa il campo così da una parte all'altra con quella qualità. Tanto sentiamo ovviamente convocati prima di tutti i nostri ascoltatori 800240024 e vediamo un po' che tema scelgono loro. Io adesso vi faccio sentire il podio delle tre dichiarazioni che ci sono piaciute di più in questo weekend di campionato. Al numero 3. Guardi, ci sono degli episodi che condannano il Genoa. Il primo, la mancata espulsione di Bonucci, perché è un fallo da ultimo uomo e altrimenti Kučka va in porta da solo. E poi c'è l'episodio del 2-0 in cui Buffon ha parato per quel, così come tante altre volte oggi, da quel fuoriclasse che è, e sulla ripartenza abbiamo preso il gol. E Zoff torna in campo per l'allenatore del Genoa. E perché non Tomaceschi, Jon Blöd? Arrivano dopo con le coppe. Comunque fanno sempre confusione con queste regole. Cioè, De Canio si lamenta per una cosa che non esiste. Cioè, l'ultimo uomo non esiste. esiste la chiara occasione da gol, che lì non è, perché certo, Kuzka va dalla parte, certo, dove c'è Marchisio. E infatti l'arbitro, ha deciso perfettamente. Come sono andati gli arbitri, tu che hai visto tutto, Massimo? No, abbastanza bene ieri, devo dire. Sembra meno sì, pesante, meno peso specifico per gli assistenti di porta, che si mettono sulla linea. Sì, sì, infatti. Sì, perché poi gli arbitri più quotati hanno diretto le partite in buona parte, quindi insomma hanno deciso loro senza avere bisogno di sostegno. Mm. Paolo, la Sampdoria, che impressione ti fa? Ma ieri cinica, alla fine Ferrara si è un po' impermalosito, perché ha detto no. Ah, sono impermalositi. Hai visto bene molto la partita? Ieri tutti con la coda di paglia, poi sentiamo chi c'è al numero uno. Ma a me non dispiace, se non altro perché è un'età media abbastanza bassa, quindi si parla tanto di rinnovamento, mi sembra che Ferrara lo stia facendo, ripeto, forse l'abbiamo già detto, dovevano prendere Benitez e dovevano investire tanti soldi, hanno preso Ferrara e alla fine sono a punteggio pieno. Sì, hanno l'attaccante che il Milan aveva in casa, che ha già segnato 3 gol. Sbolognato per far posto ad altri che non stanno rendendo. Marco, non però il secondo rendendo. Lo facevamo anch'io e te. Sì? Mi sa di sì. Quello sul lo faceva di sicuro. Lo faceva di sicuro il nostro ospite di oggi, che saluta e ringrazia, l'allenatore dell'Under 20 e cuore e cervello del Foggia di Zeman, Gigi Di Biagio. Ciao. Buongiorno a tutti. Ciao a tutti. Ciao Paolo. Buon pomeriggio. Buongiorno. Senti, ti lascio a Paolo Ghisoni per la prima domanda. Ma con lui di che cosa parliamo? Di Zeman, di Roma, visto che l'ha avuto. Lui è un fan sfegatato del Boemo, insomma ieri Gigi, però complice anche il fatto che hai tanti giocatori di qualità, Taxidis, Pjanic, che quando c'è da spingere, quando vedono la porta, hanno sicuramente tanta foga, poi però negli ultimi minuti è arrivato il patatrac. Sì, da cosa vogliamo partire? Perché è stata una partita talmente strana che è difficile anche commentarla. Dopo un primo tempo, io ero allo stadio tra l'altro, dopo un primo tempo a dir poco perfetto, perché veramente la Roma sembrava stesse giocando con una primavera, il Bologna non riusciva ad uscire dalla propria metà campo, poteva fare più di 2 gol, è successo quello che abbiamo visto tutti quanti, quindi una Roma a due facce, una Roma che è entrata nel secondo tempo in maniera sicuramente diversa dal punto di vista dell'atteggiamento, quindi sicuramente il mister sarà arrabbiato per questo, perché se avessi vinto 2-0 con l'atteggiamento comunque del secondo tempo non sarebbe stato contento comunque, non è perché adesso ho perso, sicuramente il risultato poi sarebbe stato buono il discorso della vittoria, però l'atteggiamento del secondo tempo è stato sicuramente sbagliato. Massimo Callegari si torna a parlare della Zemanite. Sì, io credo che la qualità individuale dei difensori incida moltissimo, nel senso che Castan, che ho seguito nel campionato brasiliano col Corinthians, ha delle buone qualità nella fase di impostazione, però ha anche dei limiti quando gli spazi si dilatano e di irruenza sui quali si può lavorare, però ci vuole tempo. Burdisso ha le sue caratteristiche che abbiamo conosciuto benissimo negli anni dell'Inter, Piris ieri è stato flagellato, però mi interessa capire da Di Biagio, visto che lui poi occupava anche quella posizione lì a centrocampo, perché la Roma ieri e in buona parte le squadre di Zeman anche in passato fanno fatica a gestire la situazione, cioè una situazione come quella di ieri sul 2-0 contro un avversario in evidente difficoltà si poteva gestire con la qualità tecnica che hanno i giocatori che citava Paolo, senza dover affondare per forza e cercare la goleada, lasciando quegli spazi che poi il Bologna... Allora lasciamo che Gigi Di Biagio ci pensi. Allora Gigi Di Biagio, ci hai pensato alla risposta? No, onestamente non è che dovevo pensarci, ho le idee abbastanza chiare per capire quello che magari può essere successo. Sento parlare di Zemanite, ma secondo me nella fattispecie della partita di ieri non c'entra assolutamente niente, sono due cose ben diverse e l'avete spiegato anche voi, no? Nel senso che ci sono stati degli errori individuali che hanno lasciato insomma un po' a desiderare. Il discorso non era il momento in cui la Roma stava spingendo, anzi, era una Roma che era molto attenta a non andare oltre, a non andare a cercare il terzo gol, appunto. È quello che dico, che magari il mister è arrabbiato per questo, ma magari si perde ugualmente, però la Roma stava gestendo il risultato e questo non va bene nella mentalità del mister. Si è subito il primo gol dove la difesa era tutta schierata, il secondo secondo me il mister è molto arrabbiato, perché se voi guardate quando la Roma ricomincia a giocare centrando la palla, partono tutti, soprattutto Taxidis, che era l'uomo, uno di quelli, ha perso la palla lui nell'area, vicino all'area di rigore del Bologna, era uno di quelli più avanzati. evidentemente Taxis doveva fare da filtro davanti alla difesa mentre gli altri giocavano, questo sì. Però ci sono stati degli errori individuali e si è andato, non si è, c'è stato un blackout totale per 10-15 minuti e questo capita con tutte le squadre, non solo quelle di Zeman, sì. Può succedere. Però ecco, ritornando al discorso della Zemanite, non ha preso le famose imbarcate che ogni tanto succede con lui, non ha preso gol in contropiede e cose del genere. Ecco, in questo senso dico sì, si doveva gestire in maniera diversa, ma ci sono stati degli errori individuali sicuramente. Senti Paolo, com'è il materiale umano che Gigi Di Biagio ha a disposizione nella Nazionale Under 20? Direi discreto. Lui ne parla in termini sempre positivi, tra l'altro lui ha un modo di creare il gruppo, siamo stati a pranzo l'altro giorno, molto, molto particolare, magari ce ne parla lui perché Toldo è il suo, diciamo, fa parte dello staff, è il suo bersaglio preferito, lui quando deve un po' creare coesione il bersaglio è Toldo, cioè non usciva mai, cioè tutti i difetti possibili e immaginabili lui li elenca per fare chiaramente l'esempio opposto ai ragazzi, cioè gli fa un mazzo così, sì, praticamente sì. No, poi però queste cose non si raccontano, Paolo. No, non lo so, vabbè, però Francesco è un uomo di spirito. E il materiale umano, insomma, a parte il fatto che quest'anno i 93 sono un po' considerati gli esodati, perché alla fine sono senza campionato, i 94 hanno la primavera, o diventano grandi alla svelta, o altrimenti rischiano un po' di perdersi come leva calcistica, e soprattutto la Roma ne ha tantissimi e buoni, credo che il materiale umano ci sia, e Gigi credo sia anche la persona giusta per farli crescere anche dal punto di vista così dell'esempio e della coesione, perché non lo conoscevo sotto questo aspetto, invece può essere una chiave importante per un allenatore che invece è figlio di altri dettami molto più rigidi, molto più schematici. Gigi. Gigi cosa? No, non lo so. Dimmi. Detto tutto, Paolo. No, diciamo ha detto che... giusto o ha detto sbagliato? Abbastanza giusto. Abbastanza. No, diciamo che il materiale c'è sempre, a mio avviso, soprattutto in questa età dove i ragazzi assorbono tutto, sono un po' delle spugne, no? Dove puoi dare veramente tanto, quindi è normale che se poi hai, come è successo l'anno scorso, i vari Insigne, Verratti, Perin, Camporese, Resciglio, insomma è anche più semplice se vogliamo, però noi ecco quest'anno abbiamo deciso intanto di lavorare con i 93 a differenza delle altre nazionali che lavorano con i 92 e quindi per noi è già un grande risultato. E i ragazzi stanno crescendo tantissimi, ci sono delle individualità importanti anche in questa squadra, su tutti sicuramente Bianchetti, Piscitella, che già ne abbiamo sentito parlare e ne sentiremo parlare, però è una squadra che sta diventando squadra nel vero senso della parola, e questa è la cosa più importante a mio avviso. Gigi, voglio solo farti una domandaccia, puoi salutarti? Sì, non c'è problema. No, perché una settimana fa, insomma, c'era qui Vialli che ha detto... Lo sapevo, guarda, ci andavi. Ok, ha detto, Zeman è un bel paraculo, combatte le battaglie che gli convengono, non ha ancora chiesto scusa a me e a Del Piero. Ma guarda, io, evidentemente Gianluca e io sono due amici, no? Sì. Sia Luca che il mister... dispiace quando leggi delle diatribe, insomma, tra due persone che conosci, ma sicuramente il mister porta avanti le battaglie, non le sue, ma le domande che gli vengono fatte. Se in queste domande c'è sempre l'aiuto di mezzo, la colpa non è che è del mister, quindi non la vedo in questa maniera. Il discorso di Luca, sarò antipatico allora a fare dei nomi, perché l'ho anche ribadito al mister di questa cosa, gli ho detto vuoi lasciare stare a fare i nomi, ho risposto a una domanda e lui dice là. Evidentemente a volte ci sono delle cose antipatiche, ripeto, c'è troppo spesso di mezzo la Juve, ma non può farci niente. Ti posso garantire che se gli domandavano sull'Inter, sulla Roma, che non allenava la Roma o la Lazio, avrebbe risposto alla stessa cosa. Ma pensi che abbia pagato, come dice lui, per le cose che ha detto e per le battaglie che ha combattuto nella sua carriera, abbia pagato non solo, poi? Non solo, anche per quello. Sicuramente hanno contribuito molto sul fatto di scelte importanti da parte dei presidenti o dei dirigenti, però non solo quello, bisogna essere anche realisti. Però Gigi, chiudiamo la polemica tra Vialli che dà del paraculo e lui che dice faccia ancora abuso di farmaci. Credo che la caduta di stile questa volta sia stata di Zeman, obiettivamente. No, secondo me è una situazione molto antipatica, assolutamente, ripeto, perché poi Luca lo conosco, che persona è, che come pensa il calcio e l'intelligenza che ha, quindi dispiace sentire queste cose, dispiace quello che viene, festeggiamo, insomma, non è carino. Grazie Gigi, buon lavoro. Grazie. A presto. Grazie a voi, ciao, grazie. Un abbraccio. Grazie a Gigi Di Biagio. Dunque, e adesso, prima di andare dagli ascoltatori, Francesco provincia di Viterbo e Serino da Teramo, ragazzi, oggi rispondete voi, quindi Paolo Bisoni e Massimo Callegari. No, voglio sentire nella nostra top 3, cioè le tre dichiarazioni migliori della domenica, chi va al numero 2. Parte il Matador, il destro, alla rosa! Il Matador che fa brillare la spada e la conficca la bandierilla nel carrese del Parma, il nuovo palletto di Cavani e di Zuniga. Cavani che si scatena, venite pure qua, venite, 60 milioni di euro ce li avete in tasca per comprarvi l'attaccante più forte al mondo, se non ce l'avete restate dove siete. Sai che lo conosci, Massimo? Sì, Raffaele Auriemma, il nostro telecronista tifoso del Napoli. Ce li avete 60 milioni per venire a prendere Cavani? Ce li avete? Se non ce li avete, state a casa vostra! Sì, bravo. Poi ci sarà da discutere tutto l'anno con lui, perché insomma l'attaccante più forte del mondo è un'affermazione con Falcao in questi tempi. Tanta roba, come prima che ho detto, Hernanes, uno dei primi tre giocatori di questo campionato al momento. Francesco, provincia di Viterbo. Sì, buonasera a tutti. Salve. Allora, sì, diciamo che a proposito di Zeman e degli allenatori, quando uno ha al posto di Di Michele un Klose, magari la partita finiva in maniera diversa. E con questo vorrei dire, spero che Prandelli non prenda mai in considerazione Marchetti per portarlo in nazionale, perché se questi sono i risultati, ben venga, insomma. Perché è abbastanza mio per la scelta, secondo me. Ieri, Di Michele avrà sbagliato, però anche Marchetti ha fatto il suo, insomma. L'ho trovato davanti, insomma. Io penso che poi, al di là di tutti gli allenatori, di tante cose, sì, quello che contano sono i giocatori. Sono i giocatori. Non c'è, ieri, ecco, se c'era un Klose lì davanti, avrebbe segnato la partita, sarebbe finita sicuramente diversamente. Coi secoli in mano si va lontanissimo. Però, Massimo Callegari, cosa? Non ho capito se gli piace Marchetti o no. Anch'io. No, Marchetti piace, a me Marchetti piace, solamente che vorrei che Prandelli non lo prendesse mai in considerazione per la nazionale, perché se questo è il rendimento di Marchetti non andando in nazionale, continui così. Ah, per la Lazio, chiaramente. Sì, per la Lazio, logicamente. Che resti lì e giochi solo per la Lazio senza disturbi. Vabbè. Serino, Teramo. Pierino da Teramo. Pierino, mi sbagliano a scrivere i nomi, poi gli do le bacchettate sulle dita, dopo. Dica. Niente, io volevo intervenire sul fatto di Allegri, sono un tifoso milanista, però è anche vero, adesso non so se è un problema proprio atavico di Allegri, gli ultimi 4 anni Allegri, delle prime 3 partite di campionato, mi pare che ha vinto solo quest'anno, mi pare una con Lecce 2 anni fa, perché mi pare che col Cagliari non ha mai vinto le prime 3 partite, poi l'anno scorso dei pareggi, quest'anno ha vinto una partita, sarebbe il risultato migliore degli ultimi anni di Allegri. Quindi lei dice sta andando meglio di sempre. C'è qualche problema di preparazione, non lo so, perché un anno può succedere, 2 anni può succedere, ma in 4 anni che le prime 3 partite di campionato non ha mai vinto. Mi sa che quest'anno è la prima volta che ha vinto una partita. Sì, l'anno scorso ha fatto 2 punti, lo ha sottolineato lui anche oggi, però ne ha perse 2 in casa senza segnare neanche un gol. No, ragazzi. Se ha resistito a Cellino, mi pare fosse 0 su 5 il primo anno, no? Sì, credo di sì. E quindi credo possa resistere anche al Milan. Adesso troverà sicuramente una quadra. Resta il fatto che mettere Acerbi al posto di Thiago Silva e Sharawi, che è stato tra l'altro uno dei più brillanti rispetto a Ibra. Con Ibra questa partita finiva 1-1 sì, minimo, sì. Perché vai sotto, però poi alla fine la pareggi. Sì, poi il Cagliari è una cosa, il Milan è un'altra, nel senso che affrontare questi inizi di stagione al Cagliari con la presenza di Cellino sicuramente non è semplice, però gli obiettivi sono diversi, recuperare punti, poi come lui fece molto bene, gli aveva permesso di arrivare in zona a ridosso dell'allora UEFA. Sì. Qui è più difficile anche perché negli altri anni non era mai così ampio il margine rispetto alla prima dopo 3 giornate, e ci sono davanti 3 squadre, di cui almeno 2, Juve e Napoli, se la giocheranno fino alla fine. Allora, la dichiarazione più divertente della settimana è questa qui, Stramaccioni. Farmi dare il provinciale da chi? Io non cedo proprio niente di provinciale, però è una mia visione. siamo stati bravi, secondo me, a rimanere in asse dopo tutto quello che c'era stato gentilmente detto dopo la partita con la Roma, qualcosa anche di gratuito, lasciare Juan e Ranocchia 2-2 con Bianchi e Sgrigna, accettare l'1-1, io non ci vedo niente di provinciale, ci vedo una mentalità di venire a fare la partita alti, poi penso che quando si parla di Inter, prima di parlare di mentalità provinciale bisogna contare fino a 10, sciacquarsi la bocca e poi parlare di Inter. Collottorio. Sciacquo la bocca, no? Hai sciacquato la bocca. Sì. Anche Moratti ha parlato, eh? Inter intelligente, non provinciale, ha detto stamattina. È stato la cresta o no? Stramaccioni. Finto umile. Tu Massimo, yes. Cosa ne pensi? No, credo che si può essere sicuramente e tranquillamente in disaccordo con le osservazioni che si fanno, ma non perché l'ha fatto un mio collega o una mia collega che lavora con me, lo dico per chiunque fa questo lavoro. Si può essere in disaccordo più o meno, e i tesserati hanno il diritto di esprimere questo, però in maniera diversa e più rispettosa. Ah. No? Sì, sì. Claudio da Padova. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, io ho telefonato perché speravo con la nuova trasmissione che cambiassero un po' le cose, invece sempre dopo una giornata in cui si è sentito parlare di calcio fra sabato e domenica in maniera imperversante, anche il lunedì purtroppo sempre le stesse cose, poi si dicono, io non amo particolarmente il calcio, amo il rugby, e speravo che venisse fuori qualcosa sulla dichiarazione di Gavassi, neoeletto presidente della federazione, che sembra abbia dichiarato a un giornale che la Benetton si è comportata in maniera il limite del lecito nella campagna elettorale. Ecco, è un'affermazione gravissima fatta da un presidente contro la squadra più forte che abbiamo in Italia. Sì, guardi, ne abbiamo parlato venerdì. Mi scuso anch'io, però non è che possiamo tenere anche i conti di quando ascoltate e quando no. Apriamo e abbiamo aperto realmente, e chi ci ascolta sul serio lo sa, la porta a tutti gli sport, non più tardi di venerdì, ultima puntata settimanale di Tutti Convocati, si è parlato di rugby e di quali erano i programmi elettorali. Comunque c'è anche il podcast. Bravi, da scaricare sotto nome Tutti Convocati, e quindi potete anche tenere i conti. Apriamo a tutti gli sport e continueremo a farlo. Il lunedì, grosso modo, la cronaca è il calcio. C'è anche Valentino Rossi, ci sono anche quelli del tennis, lo sappiamo benissimo, ma tanto abbiamo tutta la settimana per parlarne, per allargare il discorso. Giuseppe da Palermo, buongiorno. Di che parliamo? Chiamavo per avere un vostro commento, una vostra opinione sulle prospettive di campionato del Palermo da un lato, senza, sono sicuro che insomma direte nulla di nuovo sull'agire, ecco, di Zamparini, che piuttosto che fare un mercato che mirato almeno a rimpiazzare qualcuno, diciamo, dei giocatori che ha ceduto, se la prende solo con gli allenatori. Grazie. Sì, grazie a lei. Guardi, io le faccio, rispondo anche a Stefano che domanda a tutti e tre, più rottamatore Renzi o Zamparini. Allora, noi magari non ne diremo nulla di nuovo su Zamparini, ma ne facciamo sentire una cosa carina. Non ti sopporto più, davvero, davvero. Dopo 10 anni, e con grande soddisfazione, siccome mi capita molto raramente di fare la presentazione dell'allenatore, penso che di questa mia ironia dovete essere orgogliosi, che vi ho creato un sacco di lavoro di prime pagine in più in questi anni. Dovrete avere una certa preoccupazione, perché è mio desiderio di invertire questo ruolo in maniera molto forte. Non sia molto tranquillo Sannino, che lo dico sempre questo qui, e poi mi smentisco. L'Italia è in festa e io sono giù, non mi sopporto più, davvero, perché mi hai rotto il blu. No, io non sono tranquillo, sono sereno, che è diverso, tranquillo. Quello che si dice intorno mi interessa poco, il vostro compito è quello di andare al di là anche del campo, e giustamente credo che Palermo, Zamparini, ormai sia una telenovela che dura da quando il presidente è nel calcio, però io vado avanti per la mia strada, facendo il meglio possibile con questi ragazzi che stasera devo dire sono stati davvero lodevoli per quello che hanno saputo mettere in campo. Come faccio? Dati una mossa a dirtelo. Dati una mossa. Devo buttarmi. Dati una mossa dal quinto piano. Sì, sì, purtroppo sì. Purtroppo per le mie tasche. Lui non credeva nella squadra e la squadra non credeva in lui. Era troppo distante dai giocatori, non è riuscito a integrarsi, non lo so perché. Ed ero preoccupato perché era una involuzione completamente negativa, appunto. Infatti oggi un giornalista me l'ha fatto notare, dopo il primo gol che segnavamo quest'anno, che di solito quando ci sono questi pericoli, queste tensioni così, sai, vanno ad abbracciare l'allenatore, neanche un giocatore. Non ha capito, e allora sai che c'è, non ti sopporto, non ti sopporto più. Non una grande novità, no? Ha bruciato. Si è presentato con Pioli l'anno scorso, mi ricordo, a conferenza stampa, lo teneva sotto braccio e diceva: io penso che con questo allenatore andremo avanti molti, moltissimi anni. Secondo me lui è una parte femminile, che è lo shopping convulsivo da allenatore. E credo che io un giorno facciamo una cosa, invitiamo al telefono un dirigente, io credo sia la MZ, no? Per sì. capire se anche a livello aziendale lui ha questa... come dire, questa bisogno, gestione, no? Di ricambi bisogno. E cose di questo genere. Bisogno magari di è solo il suo giocattolo il calcio, allora assolutamente lecito. No, Arrigo Sacchi ieri diceva in studio: adesso ci aspettiamo che lui faccia la cosa che tutti vorremmo vedere, lui in panchina. Sì, ma da anni, da anni però non lo fa mai. No, non lo fa mai perché... E quest'anno aveva già ricevuto tre no, perché poi spesso parlando così, anche se dice, ma alla fine trova sempre qualcuno che dice va bene, vengo, no? Sapendo quello che, che è, il destino. È il destino. Però Delio Rossi, Ballardini, Reia avevano già rifiutato. Gasperini ha detto Gasperini sì, sarà un bel match. Sì. O no? In che senso? Tra Gasperini e Zamparini. Bah, sì. All'inizio, equilibrato all'inizio, poi dopo purtroppo. Però attenzione, io ho avuto Gasperini l'anno scorso in studio e mi ha detto: chi prende Gasperini sa... A che cosa va incontro, quindi non cominciamo a parlare difesa 4, difesa 5, cioè chi prende Gasperini sa che è 3-4-3. No, ma lui quello, Zamparini, la difesa 3 è bene, sempre quindi. Stata sì, una sua va idea, bene, un suo bene. Cavallo di battaglia. Vediamo quanto dura. Giorgio Prato. Sì, ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Guarda, nel giochino, no, che va di moda, no, nei media, di individuare la squadra sorpresa, no? Adesso giustamente tutti si fanno un po' diciamo travisare un po' dalla classifica e parla tutti di Sampdoria. A mio parere a Sampdoria ha giocato con tre squadre che sono il Pescara, il Siena e il Milan attuale, che sono forse sicuramente due delle tre peggiori squadre. Insomma, in realtà poi per me la Sampdoria è una squadra come organica, sarà una squadra a metà classifica, la vedo difficilmente. Io credo che, e per mia fortuna, visto che ne sono tifoso e spero che sia ignorata ancora per un po', sottovalutata, sarebbe una fortuna, io credo, vedo molto molto bene la Fiorentina. Guardate, la qualità, perché tutti parlano di Jovetic, in realtà la vera forza della Fiorentina è il centrocampo, perché una qualità di un centrocampo che ha Pizarro, Borja Valero, Aquilani, Mattia Fernandez, Quadrado, e gente anche dei cagnacci all'occorrenza come Migliaccio, guardi, Rocca, eccetera. No, ma guardi, la Fiorentina è una squadra costruita per altri obiettivi, io credo, rispetto alla Sampdoria. La Sampdoria ha avuto questo avvio scoppiettante, questo avvio incredibile, perché tre vittorie comunque per una neopromossa, due in trasferta, è tanta roba. Io non credo siano paragonabili dal punto di vista qualitativo Fiorentina e Sampdoria. Massimo, che ne pensi? No, credo di no. E poi comunque un giocatore come Jovetic, per quanto ci siano gli altri che citava l'ascoltatore, al momento secondo me è il numero uno. Tu dicevi Hernandez nei primi tre, io dico Jovetic e Cavani sicuramente. Jovetic secondo me è numero uno in questo momento, proprio per quanto incide sulla squadra. Però mi sembra che Montella anche stia dimostrando grandi qualità, perché ha un gruppo di giocatori, caratteristiche di giocatori, che quelli che citava a centrocampo, che sono un po' diverse rispetto a quelle che aveva a Catania. Però sta da comunque... Mi ricorda un po' la Lazio, non so se sei d'accordo come qualità a centrocampo, perché ieri la Lazio giocava alla fine con 5, che poi erano falsi, perché Hernández giocava più a ridosso di Klose, però la qualità dei centrocampisti della Lazio, fuori Lulic ieri, insomma, Mauri, Candreva, l'unico forse Ledesma. Un po' così, sì, Ledesma, Gonzales. Poi mi sembra che la Fiorentina, con i nomi che ha fatto l'ascoltatore, siamo lì, quindi forse la difficoltà è quella di segnare o trovare un'alternativa al posto di Jovetic. La Lazio c'ha Klose, che è una garanzia, forse l'unica discriminante. Vediamo se riusciamo a parlare anche con Nello dalla provincia di Savona prima del traffico. Buongiorno. buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Sono un tifoso milanista affranto. Affranto. Affranto è la parola giusta. Premesso che la cessione di Pirlo griderà vendetta per i prossimi 20 anni. Sì. Ma vista la pletora di cursori di centrocampo in fotocopia, non era il caso di tenere Seedorf almeno ancora un annetto e fargli fare una ventina di partite? E seconda cosa, e provare a ripetere il miracolo Pirlo portando indietro Emanuelsson a impostare il gioco, visto che è l'unico piede gentile che abbiamo lì in mezzo? Ma non lo so, secondo me i tempi per la diaspora degli anziani erano arrivati. Il problema è che non sono arrivati a ricambi all'altezza, no? Che ne dite? Sì. Cioè, non si può dire un altro anno Seedorf, facciamo ancora un anno con Nesta e possiamo andare avanti così per molto tempo, però i tempi per salutare, ed è un guaio questo, però per salutare la colonna vertebrale del Milan, non solo in campo ma anche nello spogliatoio, erano maturi. Il problema è che non c'è stata la possibilità economica di ricostruire. Magari si andava a prendere Verratti, tanto per fare un sì, esempio. Sì, adesso Allegri dice costava troppo per noi, no? Però tu hai seguito il campionato primavera, lo continui a seguire. Non c'è l'alternativa pronta. Massimo. No, certo, non c'è l'alternativa pronta, però dico, siccome il problema è stato, ad esempio, nel momento in cui Thiago Silva sembrava venduto, poi sembrava trattenuto, in realtà stava per andarsene comunque, l'alternativa iniziale sembrava Dedé, che è un difensore brasiliano, che costava moltissimo, e il punto era... costa troppo, no? Però non erano state cercate delle alternative economicamente più vantaggiose, però che vanno valutate nel tempo, cioè giocatori seguiti con attenzione per dire nel momento in cui arriva un'offerta che può arrivare per un grande come Thiago Silva, noi abbiamo pronto un'alternativa di medio livello, e a livello giovanile lì volevo arrivare, ci sono club che investono moltissimo economicamente, il Milan qualcosina comunque ha fatto, ha sbagliato degli acquisti, ha preso Viudes, ha preso altri come Carmona, cioè ha preso giocatori che poi non sono mai stati consolidati. Sì. È vero, però è un ruolo quello di centrale del Milan che secondo me, centrale difensivo, sì, è troppo, come dire, scoperto se non hai un fuoriclasse, perché il Milan a livello settore giovanile i giocatori li ha portati in prima squadra, Darmian, De Sciglio, De Vito, tutti però facci caso sugli esterni. Sì. Aveva in casa Romagnoli, è andato a Pescara, aveva in casa Albertazzi, l'ha portato prima al Getafe, adesso sta facendo panchina a Verona. Cioè quello è un anno, te lo ricorderai sicuramente, l'anno di Leonardo a Palermo, quando non c'erano difensori centrali, ha adattato Oddo piuttosto, sì, che far giocare, sì, sì, Albertazzi. Quindi è un ruolo talmente delicato, secondo me, che necessita di un giocatore anche da spendere come nome, capisci? Beh, ma certo, questo è evidente. Mi sembra che l'Inter ieri abbia trovato una buona coppia per il futuro, insomma. Poi avranno delle pause, però. C'è chi vorrebbe Rey al Milan, chi ha trovato tra i nostri ascoltatori di SMS Juan Jesus già come possibile erede di Samuel. A me sembra tanto, a voi? Beh, sì, però può lavorare, soprattutto non avendo la necessità di essere sempre titolare, credo, no? Perché Samuel quando tornerà sarà ancora, però ha dato delle buone risposte ieri in generale anche con la nazionale, al di là di qualche limite a volte, così qualche pausa anche alle Olimpiadi, però è molto giovane. Sì. Ti piace Paolo? Sì, mi piace, però prima sentivo il dottor Stramaccioni dire abbiamo affrontato il 2 contro 2 contro Bianchi e Sgrigna, adesso voglio vedere quando giochi contro Max, certo, Morales, con Giovinco, questi qua che come caratteristiche proprio sono fisiche, altro sono passo, completamente diversi, e sul breve possono fare dei danni. Allora, prima di Franco da Alessandria, io voglio divagare un attimo e farvi sentire Valentino Rossi cosa ha detto ieri dopo la gara di Misano. È stata molto bella, sono contento, devo ringraziare un sacco di persone che comunque hanno sempre creduto di potersela fare anche nei momenti più difficili, ecco. A partire da Uccio, che prima di venire qua mi aveva detto partiamo in seconda fila, facciamo il podio, e io gli avevo detto cazzo di impossibile. Qui a Misano, quindi lo voglio dedicare assolutamente al Ziz, secondo me anche lui mi ha dato un po' una mano. È stata una domenica e una corsa strana, un weekend strano questo, come ben sapete, con Valentino Rossi che ha fatto in modo di ricordare il suo amico. Franco, Alessandria. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Siete veramente bravi e competenti soprattutto. Ma io volevo parlare dell'amico prima diceva cuori affranti rossoneri, in effetti sì, si allinea anche lei. E mi allineo perché essendo stati per anni ai vertici senza presunzione internazionali, vedersi adesso alla stregua di squadre che con tutto rispetto non dovrebbero essere, cioè alla portata del Milan, però ce la dobbiamo lottare tutti i giorni. Va bene, fa parte della vita, lo accettiamo che questo, però io volevo dire solo una cosa, io non sono un amante del fantacalcio e volevo con voi confrontarmi su un auspicabile progetto molto intrigante che però può essere l'unica giustificazione a questo misfatto della dirigenza e della proprietà. E in questo senso mi riferisco al disegno, alla campagna di pulizia, chiamiamola così, si è voluto così pulire, tra virgolette, lo spogliatoio da scorie che potrebbero essere difficili da gestire, si è voluto limitare al massimo i danni economici per puntare tutto sulla prossima annata, prendendo un allenatore, investendo su un allenatore che sia in grado di valorizzare i giovani. Quindi quest'anno piazza pulita, ripuliamo lo spogliatoio, i conti eccetera eccetera, l'anno prossimo rifacciamo la squadra. Sì, però la squadra si ricostruisce con l'allenatore, non dandogli i giocatori che non si trovano un anno di sul mercato a seconda delle opportunità last minute che emergono. Il fatto, Marco, che se poi non arrivi in Champions, voglio vedere con che risorse lo fai, cioè certo, il rinnovamento. A parte il fatto che io sono convinto che sarà molto dura per il Milan già passare questo primo girone che comincia domani. Enzo, Roma. Pronto? Pronto? Dica. Sì. Buongiorno, sono Enzo, chiamo da Roma, sono un vecchio tifoso della Lazio. Sì. Sono diventato laziale nel 1937, quindi non so se mi spiego. Sì. Così sento il dovere, perché da un po' di giorni, da un po' di settimane, diciamo, da quando è cominciato il campionato, si parla pochissimo di questa squadra, della mia squadra, che fino a prova contraria in questi ultimi anni è sempre stata tra le prime quattro del campionato. Mi farebbe piacere un suo giudizio, perché se ne parla poco. Da una parte mi fa anche piacere, perché così si corre nascosti, come si dice. L'ho detto però prima, si corre all'ombra giusto, del cupolone Zeman, ma ne abbiamo parlato prima della Lazio, sì, insieme al Napoli, quella che può stare Roma, che può stare lì davanti per un po'. Della città, ma noi siamo anche la squadra, una delle squadre più vecchie d'Italia, dopo Sì, no, questa è storia. Nicola Bari. Sì, buongiorno, salve. Volevo intervenire a proposito del discorso di Zamparini. Volevo solo ricordarvi una cosa, insomma. Praticamente io seguo sempre il vostro programma. Mi ricordo che già durante, insomma, quando c'era Garanzini, chiamò un direttore di un supermercato, insomma, gestito da Catena Zamparini, e confermò praticamente che lui si comporta, insomma, nello stesso modo, così come fa con gli allenatori, cioè appena le cose quando Paolo Ghisoni alza le braccia al cielo. Ma l'avevo sentita quella puntata lì. Sì. L'avevo sentito. Allora eri ripreparato? No, però turnover anche a livello. Sai, però una Rondi non fa primavera, magari gli altri sono contenti. Allora ragazzi, adesso per chiudere vi faccio un paio di indovinelli sulla Champions League che sta per iniziare. Uno per uno, I numeri della Champions. Allora, questa è per Massimo Callegari. Due squadre, le squadre esordienti nell'edizione 2012-2013 nella massima competizione europea sono? Vorrei avere i gironi qua sott'occhio, no? Troppo complicata. Il Malaga? No, Montpellier e Nordjylland. Quella la sapevo io. La sapevi tu. Allora, dimmi questa. Due le squadre che non giocheranno le loro partite casalinghe nel loro stadio. Ma dove? In Europa? Sì, Champions League. Mamma mia. No, troppo difficile. Potrei dirti la Pro Vercelli in Serie B. Ma no, i campioni di Danimarca che giocheranno a Copenaghen e non a Farum, e il Bate Borisov che non giocherà a Borisov ma a Minsk. ragazzi, questa è Piantanida che fa queste mind games. Sì, sì. È stato Piantanida, quindi adesso finito il programma. Esatto, potete fare di lui ciò che volete. Noi ci sentiamo domani, sempre a quest'ora. Per parlare di sport, di tutti gli sport, come sempre, tutti convocati alle 14. Grazie a Franco Piantanida in redazione, a Fabio Cantadori in regia, naturalmente a Massimo Callegari, a Paolo Ghisoni. Ciao a tutti.